L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera, ben ritrovati da Laura Bettini, una nuova puntata dell'Altro Pianeta. Ci fa piacere andare a Catania sognando un po' del tepore siciliano in questo semi-autunno del nord Italia. Catania, questa settimana si è parlato di chimica sostenibile, si è parlato di questo argomento al Consiglio Nazionale dei Chimici e abbiamo il piacere di avere con noi a questo proposito il Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici, Armando Zingales. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera. È un piacere risentirla per parlare di un argomento che ci sta molto a cuore. L'abbiamo già affrontato in passato con lei, poi abbiamo avuto altre occasioni di parlarne. Tra l'altro, nei giorni in cui appunto voi vi riunivate a Catania, a Milano si intitolava Laura Conti un giardino tra via Michelino da Besozzo e via Chiari, lo diciamo per i milanesi che magari abbiano curiosità. Medico, partigiana, ambientalista, come si scrive sulle targhe in questi casi, Laura Conti dedicò la sua vita ai temi della ecologia, dell'agricoltura compatibile con l'ambiente, contro l'inquinamento, fu, e qui ci avviciniamo al tema della chimica, particolarmente vicina alla popolazione di Seveso quando nel 76 dalla Ecmesa si sviluppò quella nube tossica di diossina che contaminò decine di chilometri quadrati e fece quei danni che purtroppo ben sappiamo. Da questa sua esperienza Laura Conti trasse delle pubblicazioni, Visto da Seveso, una lepre con la faccia da bambina, insomma adesso c'è un giardino a Milano intitolato proprio a lei. Zingales, com'è cambiata da Seveso ad oggi la chimica? Voi oggi siete lì a parlare di chimica verde, quindi siamo su tutt'altro fronte, siamo molto più avanti. Che cosa c'è di diverso? Beh, c'è di diverso che intanto si comincia ad aver coscienza che la chimica, come tutte le brutte bestie, è bene che sia gestita da chi la conosce, e che cioè ci vogliono i chimici, ma anche per la chimica del futuro, cioè quella che deve rispettare la sostenibilità globale del nostro pianeta, ci vogliono delle professionalità specifiche, non solo quelle dei chimici, che sappiano governarle. Ci sono tante cose da fare, ci sono delle cose che si possono fare immediatamente anche nel nostro piccolo, per esempio imparare a risparmiare, che è la prima cosa che aiuta il bilancio energetico e la sostenibilità, perché lo spreco, per esempio, nei condizionatori o nel riscaldamento a seconda delle varie stagioni è uno dei motivi per cui non si consuma troppo, ma poi ci sono tante altre cose che si possono fare, di cui stiamo parlando qui oggi, dalla cattura dell'anidride carbonica negli impianti di produzione di energia elettrica tradizionali, alla sostituzione dei combustibili fossili con fonti rinnovabili e restituibili, naturalmente mai mettendo in competizione cibo ed energia, perché è una follia assoluta, ma utilizzando tutto ciò che si può per sostituire i combustibili fossili. Questi sono i primi temi che noi stiamo trattando. E poi so che affronterete anche i temi dell'occupazione, che di questi tempi assolutamente sono questioni importantissime. E come va per i giovani chimici, per coloro che si laureano adesso in questo campo? Naturalmente la crisi viene sentita fortemente, perché tutto il settore industriale è in forte compressione e crisi, il settore chimico si risente meno per la chimica della trasformazione, che è quella che ormai è la principale in Italia, però non è con lo stesso tenore di sviluppo che aveva in precedenza. L'opportunità che viene offerta dallo sviluppo sostenibile attraverso la chimica verde è un'opportunità reale per i giovani, che siano chimici, che siano ingegneri, ma che siano anche periti agrari o periti industriali. C'è uno spazio per lavorare in questo campo. Lei pensi che qui siamo in Sicilia in questo momento per il convegno, stanno mettendosi insieme 390 sindaci con un'iniziativa del Presidente della Regione per utilizzare risorse ingenti e fare dei bandi per dei lavori che servono poi a comprimere i consumi e la produzione di anidride carbonica nell'ambito dei comuni. Questo significa che si fanno dei piani per la progettazione energeticamente sostenibile delle case e degli edifici pubblici, cioè c'è spazio per lavorare per tanta gente che abbia voglia di farlo. Ecco, quindi si va a un lavoro che è un po' al di là di quello di laboratorio a cui si pensa normalmente. Quando si pensa a un chimico, no, ce lo si immagina tra le provette e gli alambicchi, invece non è così ormai. Sì, purtroppo è un'immagine antica e di cui non riusciamo a liberarci. Il vero è che il chimico deve sapere che cos'è l'analisi, deve saperla fare, ma soprattutto deve saperla interpretare e ordinare. Non necessariamente deve avere il laboratorio, ma può anche rivolgersi al laboratorio di un collega che è magari più attrezzato. Il chimico è un consulente a tutto campo, dall'ambiente al materiale, alla sanità pubblica per certi versi, quindi l'ambiente è il suo campo naturale oggi di lavoro, e la sostenibilità è importantissima. I rifiuti, per esempio, sono un campo dove i chimici lavorano molto. Sicuramente si può, appunto, in questi settori dare sempre più opportunità ai giovani, ma anche ai meno giovani, basta essere competenti, insomma, in questi casi. Ecco. Certo. Io richiamo spesso il miracolo che è avvenuto nella zona di Venezia, dove per un caso particolare c'è un impianto di trattamento dei rifiuti urbani che fornisce un combustibile da rifiuti alla centrale elettrica dell'Enel, che è a carbone, diminuendo nel complesso le emissioni globali di quella centrale rispetto a quelle che farebbe se non avesse questa alimentazione. Quindi il bilancio complessivo è positivo, ma purtroppo è l'unico esempio in Italia. E come mai? Perché manchiamo di strategie e di visione nazionale, magari? Sì, perché è tutto difficile da fare in Italia. Ci sono altre centrali che farebbero questa cosa, ma è sempre difficile arrivare. Noi, per far questo, perché sono uno degli artefici, abbiamo messo 10 anni di studi. Questa esperienza, questi 10 anni, sono finiti lì? Non hanno avuto ulteriori sbocchi? Per Venezia è una cosa molto bella, perché a valle di una raccolta differenziata che raggiunge anche il 70% in certe aree, ha anche questo ulteriore recupero di energia che per un 35% è rinnovabile, e nell'altro è un recupero di energia che andrebbe persa comunque, e quindi è un qualcosa di positivo, ma il tutto con un bilancio delle emissioni che è migliore di quello che ci sarebbe utilizzando diversamente quei materiali. Certo, questo si potrebbe fare anche in città più piccole, magari con situazioni diverse da quella di Venezia? Sì, sicuramente, ma questa è una delle idee, quella di fare dei bilanci di energie e di materia all'interno, addirittura dei quartieri, in qualche caso dei condomini. Questa è una delle proposte che il Consiglio Nazionale dei Chimici ha reso pubblica nelle scorse settimane, perché ci si può riuscire e si può ottenere dei risultati che sono poi importanti, perché, come diceva quel musical di tanti anni fa, aggiungi un posto a tavola, se una formica da sola non riesce a far nulla, ma se tante formiche si mettono insieme spostano il mondo. Queste tante formiche forse dovrebbero anche fare un po' di pressione su chi ci governa di volta in volta, non diciamo solo... perché sia anche mantenuta nel tempo una rotta. Io credo che uno dei grossi problemi che dobbiamo affrontare adesso è il fatto che di governo in governo, di trimestre in trimestre, abbiamo rotte differenti. È difficile anche per voi fare una proposta. Di questi giorni la presa di posizione del ministro Zanonato sul Sistri, che noi abbiamo denunciato essere un aumento inutile della burocrazia in un campo in cui la competitività è importante, senza che porti dei vantaggi reali. Lo ha detto pubblicamente in un'intervista pubblicata su un stampa nazionale. Noi siamo contenti che se ne siano accorti. Sì, però nel frattempo chi ha lavorato sul Sistri, penso anche alle aziende, alle persone così, ha buttato via parte del suo tempo, e questo non può certo motivare, purtroppo. No? Ha reso tutto... Purtroppo, è chiaro che il controllo sui rifiuti pericolosi va fatto, lo chiede anche l'Europa, ma non basta la burocrazia delle carte. Ci vuole poi chi va a fare ogni tanto dei controlli veri. Bisognerà anche vedere se poi davvero il Sistri finirà seriamente la sua avventura, perché l'Italia è anche il paese in cui si annuncia e poi si disannuncia, perché poi sono la verità. Con lei. questo è un altro dei problemi. Comunque, chimica verde, quindi abbiamo capito, non parliamo di alambicchi, non parliamo solo di grandi impianti, cioè quindi non parliamo solo di riconversioni industriali verso la chimica verde, ne abbiamo parlato anche in corso. Che sono importanti pure. Che sono importanti, che danno lavoro, che riqualificano sicuramente, ma parliamo anche di tante piccole altre attività che i chimici possono svolgere, piccole, grandi, medie attività che i chimici possono svolgere presso le amministrazioni, presso le imprese. Verde, per chiudere, ci spieghi un po' perché si chiama verde questa chimica? Manco con un riferimento alla campagna, alla natura e alla rinnovabilità, è questo il termine. Ma comunque insomma riteniamo che la parola più corretta sia sostenibile, ma ogni tanto ci vogliono gli slogan. Quindi anche voi vi siete un po' piegati, insomma, al vostro consiglio. Sì, no, universalmente ormai viene riconosciuta con questo termine, green chemistry o chimica verde, anche perché, come dire, alla base della vita ci sono processi chimici, come ho detto spesso, anche alla base dell'amore ci sono processi chimici, no? E quindi anche prima della vita. Armando Zingales, presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici, buon lavoro e a risentirci alla prossima occasione. Buon lavoro a voi, saluti agli ascoltatori. E per questa puntata è tutto, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora per scriverci l'altro pianeta @radio24.it.